nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Bentornati, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma che parla di lavoro la domenica, lavoro con una visione femminile, ma parla di lavoro anche pensando a come alleggerire i problemi che al lavoro spesso sono collegati. Oggi parliamo di alleggerirci la vita in generale, pensando soprattutto a chi per lavoro arriva in una grande città dalle zone limitrofe o per chi nelle grandi città vive. Tra le complicazioni di una vita in una grande città c'è appunto quella che per fare tante cose, magari raggiungendo punti diversi della città, ci si complica la vita ulteriormente. Non tutti hanno la possibilità di vivere la dimensione professionale e familiare nello stesso quartiere e talvolta appunto perdi un'ora per raggiungere il posto di lavoro con tutte le complicazioni che ci sono. Eppure la vita in città attrae sempre di più. Pensate che per la prima volta nella storia, all'inizio di questo decennio, la popolazione urbana del pianeta ha superato quella rurale. La potenza economica del mondo, insomma, si concentra nelle città. La metà urbana dell'umanità produce oltre l'80% della ricchezza globale, almeno secondo il rapporto dell'ONU che di questo si occupa. E nel 2030 avremo 41 megalopoli da oltre 10 milioni di abitanti. E oggi sono solo 28, solo tra virgolette. Ci sono vantaggi, se no la gente non si sposterebbe. È chiaro che ci sono vantaggi nel vivere in una grande metropoli, ma ci sono anche un sacco di svantaggi e oggi cercheremo di capire come alleggerire gli svantaggi o come vedere, per chi ha scelto di vivere fuori da una grande città, però lavora nella grande città, come coniugare tutte e due le cose. Voglio proprio sapere cosa pensa dell'argomento l'agente provocatore di questa domenica. Benvenuto, buona domenica, nessuna è perfetta, il senatore del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Allora, come alleggerire la vita di chi vive in una grande città? Perché so che lei si è particolarmente appassionato a questo argomento. Guardi, noi come movimento promuoviamo da sempre un cambiamento radicale relativo alla qualità della vita nelle città e soprattutto nelle grandi città. La suggestiva proposta di coinvolgere sempre più i cittadini nella gestione della cosa pubblica e appunto attraverso l'istituzione dei meccanismi di democrazia diretta che permetterà a tutti quanti di poter dirla loro è una proposta che è appunto coerente con i nostri valori, per cui diciamo così, il consigliere comunale, l'assessore, il sindaco non dovrà più essere schiacciato da una responsabilità che è sulle sue spalle e basta, ma vedrà coinvolti tutti quanti i cittadini che lo vogliono, appunto in un'ottica di estensione dei diritti, della discussione, della partecipazione, che è finalizzata a rendere la democrazia sempre più inclusiva e non al contrario esclusiva. Senatore, perché uno dei difetti, prego. Io però mi chiedo che competenza abbiamo noi cittadini su temi di cui per esempio non sappiamo nulla. Se lei mi chiedesse per esempio un'opinione su qual è il sistema migliore di illuminazione, se il LED o no, io non lo so. Allora non è un po', come dire, superficiale delegare. No, io colgo la provocazione, però le voglio far comprendere questo: il meccanismo della delega è un meccanismo passivizzante che poco alla volta ci educa a demandare e a quindi attribuire ad altri le responsabilità che sono nostre. Poco alla volta questi altri, bene che vada, si trovano ad avere un potere enorme che gestiscono per noi, ma male che vada, avendo appunto queste possibilità, ci fregano, come è capitato troppe volte. Allora, per esempio, anche in relazione al caso che lei ha indicato, quello dell'illuminazione, l'illuminazione fredda a LED oppure un'illuminazione altra. È importante, allora, nelle città, può renderle più o meno gradevoli, no? Siamo perfettamente d'accordo, ma questo significa che per esempio tutti coloro che hanno competenze possono promuovere un dibattito. Quello che a noi manca in Italia appunto è il dibattito pubblico, perché il dibattito pubblico è quello che fa crescere l'opinione pubblica, grandissimo valore conquistato dalla cultura illuministica. Noi abbiamo, e lei lo sa meglio di me, un analfabetismo funzionale impressionante, siamo fra i primi nei paesi OCSE, abbiamo una percentuale di laureati che è di poco superiore al 13% quando la media è decisamente superiore. Fra l'altro quelli che noi laureiamo li costringiamo in pratica ad emigrare, perché questo paese non offre lavoro a chi ha competenze, a meno che non giochi a calcetto, scusi la metafora. E per cui proprio al contrario, questa estensione di diritti promuove l'idea che chiunque possa entrare nel merito, naturalmente studiando, perché noi ci dobbiamo mettere in testa, e questo glielo riconosco, che da una condizione di ignoranza in cui il potere ci ha mantenuto per decenni, adesso noi si debba fare uno sforzo enorme per riconquistare una dimensione di conoscenza. Naturalmente non è uno sforzo semplice, non è uno sforzo facile. Senta, ma senatore, è uno sforzo alla nostra portata. Cerchiamo di elaborare concretamente. Guardi, questa concretamente ipotesi. Su che cosa, un cittadino per esempio di Roma, no? Visto che voi a Roma governate, o sì, a Torino dove governate, potrebbe dare la sua proposta con questo sistema di e-democracy? E chi verifica che poi quel cittadino sia veramente Mario Rossi come clicca? Allora, punto primo, intervengo subito su una polemica sterile e assolutamente artificiosa montata da alcuni esponenti del Partito Democratico e fra l'altro anche smentita dallo stesso candidato avverso a Virginia Raggio, cioè Roberto Giachetti. Mai e poi mai si può pensare che i software per organizzare appunto queste piattaforme di consultazione democratica e partecipata possano essere software gestiti da un privato. Mai e poi mai chi semplicemente ad ombra ciò confonde. Quindi non è la Casaleggio Associati che si gestisce, guardi, la e-democracy del Comune di Roma. Guardi, su questo non ci piove, le istituzioni sono una cosa, le aziende sono un'altra cosa. Poi, per fare un esempio concreto, qual è un tema su cui un cittadino o una cittadina può intervenire e dare la sua proposta, visto che oggi noi di questo ci occupiamo, di vita più leggera? Le faccio un esempio. Nelle nostre città ed anche a Roma nel tempo si sono sempre più realizzate piste ciclabili che molto spesso sono state disegnate e poi realizzate in prossimità del traffico urbano normale, quello cui siamo abituati. Molti medici, ma non soltanto loro, hanno sottolineato la straordinaria negatività di questa prassi, perché quando si pedala si va in iperventilazione molto spesso e dunque ci si espone a inquinamento molto più che camminando senza alcuna fatica. Semplicemente concedere a qualche medico, a qualche esperto di sanità di dire la sua, significa permettere all'opinione pubblica di avere un ulteriore elemento di riflessione che non sia solo e soltanto quello indicato dall'ingegnere o dall'architetto, che magari in assoluta buona fede aveva pensato di alleggerire il traffico veicolare riducendo la sede stradale occupata da veicoli a combustione fossile, certo, o ibrida, per consentire magari al ragazzo, al giovane, di pedalare per andare al lavoro. Quindi questa è un'ipotesi. Maggior ascolto. Sì, ma le ho fatto un'ipotesi banalissima. Si può ragionare degli orari di apertura e di chiusura di esercizi commerciali. L'ultima cosa, c'è una griglia, diciamo, di proposte sulla quale rispetto alla quale i cittadini potranno intervenire e invece altri temi dei quali non dovranno occuparsi? Ma guardi, in via teorica non c'è alcun tema di cui il cittadino non possa occuparsi. Io ricordo sempre una frase di Rousseau nel contratto sociale che ho trovato pubblicata sull'ultima pagina di copertina dell'ultimo volume di Raffaele e Simone, nel momento stesso in cui, a proposito degli affari dello Stato, qualcuno dice che me ne importa, e qualcun altro, insomma, in epoca recente in Italia diceva chi se ne frega, ce lo ricordiamo, state pur certi che lo Stato è perduto, perché la democrazia è sforzo di dare una mano al gruppo di cui si è parte. Se al contrario si promuove una scelta individualistica, per cui di alcune cose mi occupo, che sono quelle per cui ho un interesse diretto, e delle altre me ne frego, mi scusi il termine, beh, allora significa che la democrazia è in grave crisi. Ora, premesso che dovranno essere i cittadini della comunità coinvolta a decidere quali siano i temi, a me ricorda un pochino questa possibilità, quella che viene demandata agli uffici di presidenza degli organismi elettivi, che sono quelli che scelgono quali temi affrontare, quali proposte di legge portare in aula o in commissione. E noi vogliamo che non siano più maggioranze, magari ottenute attraverso artifici elettorali, ma siano appunto tutti coloro che partecipano, perché il nostro cardine è quello di quorum zero, partecipa perché non hai nessun ostacolo, ma se non partecipi poi non ti puoi e non ti devi lamentare. Bene, io ringrazio Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle, ci ritroviamo qui per fare il punto quando la e-democracy sarà diciamo uno stato un po' più avanzato delle nostre chiacchiere. Grazie e buona domenica. La ringrazio, buona domenica anche a lei. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, questa è la seconda parte di Nessuno è perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Come sapete, ora è il momento della Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxi di Roma, ormai da parecchi anni, dal 2012, e già ministro, ministro di molti governi, ministro sia alla cultura che con delega allo sport. Allora, buona domenica Giovanna Melandri. Il punto sul quale vogliamo ragionare questa domenica con i nostri ospiti è: come alleggerire la vita di chi lavora nelle grandi città. E la Fondazione Maxi ha suscitato anche molte polemiche, perché tra le varie iniziative artistiche, le bellissime mostre che organizza il Maxi, ogni tanto c'è anche un evento che alleggerisce la vita, lo yoga o gli eventi per i ragazzi. Ma sì, noi abbiamo proprio costruito volutamente il Maxi come una grande piattaforma aperta che con lo sguardo rivolto al futuro, che ospita artisti, architetti, creativi, artisti di tutti i tipi, ma che tiene sempre al centro, al cuore della propria programmazione, anche le esigenze dei nostri visitatori, tutti i visitatori, cioè dai più piccoli ai più anziani, dai più esperti e amanti dell'arte ai meno informati, e quindi insomma abbiamo tenuto veramente come direi stella polare del lavoro di questi anni la domanda del pubblico, la richiesta del pubblico. Mi dice una cosa di cui lei è particolarmente fiera che il Maxi ha fatto in direzione di rendere la vita più gradevole o alleggerire un pomeriggio alle mamme o qualcosa che va in questa direzione. Io direi che forse la cosa più importante che abbiamo fatto è stata quella di garantire a tutti il diritto alla cultura e di offrire gratuitamente dall'ottobre del 2015 ormai la nostra collezione a ingresso libero per tutti, e anzi siamo alla vigilia di un'altra grande rivoluzione nell'allestimento del maxi, perché a maggio triplichiamo gli spazi per la collezione e il nuovo allestimento, quindi con una vera e propria rivoluzione creativa interna, e questa collezione sarà gratuita per tutti sempre dal martedì al venerdì. Questo forse è la cosa più importante che abbiamo fatto, sempre con l'idea di offrire servizi. Certo, poi a fianco a questo i laboratori didattici per i bambini, per le famiglie, perché no, ricordiamo anche lo yoga al maxi, ricordiamo il cinema al maxi, ricordiamo le tantissime occasioni di confronto con scrittori, poeti. I laboratori didattici per i bambini, per esempio, in che cosa consistono? I laboratori didattici per i bambini sono straordinari, sono forse una delle cose più innovative che abbiamo inventato in questi anni. Allora, noi per ogni mostra che facciamo, adesso per esempio citiamo le due che ci sono adesso importanti, sì. La mostra dedicata, imperdibile davvero, dedicata a Letizia Battaglia, una straordinaria fotografa meravigliosa, sì. Esatto, una mostra più complicata, di però scottante attualità, che si chiama Please Come Back, che è una mostra che attraverso 50 opere di oltre 30 artisti indaga il tema della libertà nella società contemporanea, del controllo globale, dell'ipertecnologica, iperconnessa. Allora, sono due mostre molto diverse, naturalmente il lavoro di mediazione e di laboratoriale dipende molto dall'età, però con i bambini ricostruiamo le modalità con cui una fotografa guarda e posa lo sguardo su un oggetto, oppure li facciamo lavorare sui temi della connessione. I bambini oggi sono molto più iperconnessi e tecnologici, certo, di come noi eravamo a 50 anni o come noi siamo a 50 anni, quindi dipende dalla mostra con cui agganciamo i laboratori. Abbiamo avuto qualche mese fa una mostra meravigliosa di un artista di origine pakistana che si chiamava Shazia Shikander, che lavorava con partendo dalle miniature del suo paese, dal Pakistan. Abbiamo fatto dei laboratori di acquarelli, di pitture meravigliose sulle miniature. Ecco, non c'è uno standard laboratoriale, ma c'è il tentativo di costruire ponti e linguaggi per accedere al linguaggio della creatività. E non c'è dubbio che vivere in una città che offra degli stimoli culturali, delle mostre, e riuscire a far arrivare questi stimoli anche alle generazioni più giovani, migliora la vita. Sì, questo è il nostro punto, alleggerisce. Devo dire che insomma i dati ci confortano e ci danno una grande soddisfazione, perché noi siamo partiti nel 2012 con un pubblico di visitatori che si aggirava attorno ai 120.000 all'anno. Oggi stiamo superando abbondantemente 400.000 visitatori l'anno, e oltretutto il Maxi è appunto qualcosa di più di un museo, perché è anche un ente di ricerca, è anche un'istituzione, non tutto quello che facciamo si proietta nelle mostre, molto si proietta anche nei laboratori, nei corsi di formazione, e certamente il nostro pubblico elettivo, il pubblico a cui ci rivolgiamo, è un pubblico di giovani, di ragazzi che speriamo trovino nel nostro lavoro, nel Maxi, un laboratorio di riflessione sul futuro e sul loro futuro. Senta Giovanna Melandri, questa è la settimana in cui a Milano invece si svolge la 56esima edizione del Salone del Design, che è l'evento forse l'evento culturale e insieme di business, mette insieme creatività e affari, più importante che si tenga in Italia per quantità di visitatori e per quantità di paesi che si mobilitano per esserci. Sempre a Milano poi si è appena chiusa MIART, la fiera dedicata al mondo dell'arte. Perché non fare tesoro di quello che sta facendo Milano, o meglio, come vede, potenzialmente lo sviluppo di Milano come un centro che mette insieme business e arte? Sì, dunque Milano è diventato un polo straordinario, non solo italiano, ma direi europeo, forse pure possiamo dire globale, mondiale, nella capacità di tessere relazioni produttive, quindi anche economicamente rilevanti, tra il mondo dell'arte, dell'estetica e il mondo della produzione. Il design è l'anello che congiunge queste due realtà. Molto più modestamente, però lo sforzo che noi abbiamo fatto al Maxi va in una direzione, come può fare una istituzione e non un intero sistema, un'intera città, però va nella stessa direzione, cioè di incontrare le imprese. Adesso per esempio stiamo costruendo una grande mostra su Zahadid. Zahadid è stata l'architetta che ha progettato il Maxi, ma è anche un'architetta che ha lavorato e è stata la designer di tante grandi aziende italiane. Io penso che bisogna guardare con grande interesse e grande ammirazione a quello che sta succedendo a Milano da questo punto di vista, sapendo che, come posso dire, il tema è il sistema italiano, il sistema nazionale. Sì, non è una cosa di campanili. Non è una cosa di campanili, certo, se mi chiede se Roma sta, è in questo momento, Roma, non parlo del Maxi, parlo della città, è in questo momento all'altezza del compito che una grande città creativa, artistica, storica può avere nella dimensione internazionale contemporanea, le dico no, credo che ci sarebbe un grande lavoro di tessitura in questa città possibile da fare. Intanto, per quanto mi riguarda e ci riguarda, il Maxi cerca di fare con convinzione la sua parte. Ecco, poi vorrei dire una cosa: il Maxi non è il museo di Roma, il Maxi è il museo nazionale dell'arte contemporanea, dell'architettura contemporanea, quindi noi sentiamo di avere anche una funzione nazionale e non solo romana. Senta, in chiusura, noi a Nessuna è Perfetta parliamo alle donne, guardando spesso all'angolazione delle problematiche del lavoro, e affrontiamo più di una volta in questa sede il ricominciare, il cambiare vita professionale. Lei l'ha fatto, dalla politica è passata a un settore che le era affine, perché era stata ministro dei beni culturali, però certamente una vita completamente diversa. Lei, non tutte possono cambiare vita, non tutte possono permetterselo, ma chi ha la possibilità di cambiare vita anche dopo i 40 anni, professionalmente parlando? Lei glielo consiglierebbe? Ma assolutamente sì, e devo dire che quello che è importante è portare dietro con sé l'esperienza e anche, come dire, la sedimentazione di conoscenza che una può aver acquisito in altre dimensioni professionali nella nuova. Io in questo momento sono, come posso dire, un manager culturale e naturalmente nel costruire un'istituzione nazionale dedicata al contemporaneo c'è anche una dimensione di impegno civile, impegno civico, quindi non posso dire nemmeno che sia completamente avulso da quello che è stata la motivazione, il movente che mi ha portato per tanti anni a fare politica attiva, però certamente riazzerare e ripartire, la second life è qualcosa che ridà tanta forza e tanta energia. E poi le dico un'altra cosa: al Maxi c'è una curiosissima combinazione astrale, per cui oltre ad essere un'istituzione disegnata da una grande architetta che appunto è stata Zahadid, abbiamo un consiglio di amministrazione completamente rosa, cioè ci vorrebbero le quote azzurre al Maxi, e mi ritrovo con le mie colleghe nella governance di questa istituzione spesso a riflettere sul fatto che la duttilità di percorsi professionali che guardano anche a come ripensarsi, insomma, nel mondo di oggi è qualcosa che le donne sanno fare spesso meglio dei nostri, perché hanno forse meno paura di rimettersi in gioco e comunque partono dal presupposto che se a un certo punto bisogna cambiare, bisogna cambiare. E bisogna mettercela tutta. Grazie Giovanna. Grazie, Melandri. Buona domenica. Buona domenica e buone visite al Maxi. Grazie. Per chi sta a Roma. nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati, questa è la parte dedicata agli esperti. Nessuna è perfetta, questa domenica parla di come alleggerirsi la vita e abbiamo pensato di chiederlo a due donne che con questo scopo hanno fondato le loro attività. Valentina Bensi, fondatrice di Easy Mamma, un'associazione che si occupa di conciliare la vita lavorativa e quella familiare, per esempio inventando campus estivi o servizi di pedagogia o di nutrizione. Buona domenica Valentina Bensi. Buona domenica a te Maria, buona domenica a tutti. E Maria Chiara Ranetti, che con Human, servizi salvatempo, lavanderia, stireria, le scarpe dal calzolaio, le pratiche in azienda, eccetera, alleggerisce la vita di uomini e donne che magari partendo al mattino presto e spostandosi in una grande città arrivano sempre tardi su tutto. Buona domenica Maria Chiara. Buona domenica Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora, comincerei da Maria Chiara Ranetti. Qual è il compito che si prefigge Human? Ma l'Human rappresenta ad oggi un servizio fatto dalle persone per le persone, in cui la nostra piattaforma, la tecnologia, rappresenta solamente uno strumento per facilitare l'erogazione dei nostri servizi di lavanderia, sartoria e calzoleria, ma non si sostituisce mai alle dinamiche di ascolto e di relazione. L'Human è una piattaforma online che consente, diciamo, di restituisce il tempo alle persone, in particolare alle donne, svincolandole da quelle che sono le tipiche commissioni domestiche che richiedono molto tempo. Allora faccio un esempio, no? Io devo mandare in lavanderia tutto il guardaroba invernale. Ho due paia di scarpe che hanno bisogno di essere aggiustate e devo rinnovare la patente. A tutto questo ci pensate voi? A tutto questo ci pensa l'Human. Si può appunto andare sul nostro sito www.myluman.com, si possono selezionare all'interno dei servizi di lavanderia tutti, diciamo, i capi di abbigliamento necessari per poter fare il lavaggio, all'interno della sezione calzoleria altrettanto, selezioniamo le scarpe se c'è una riparazione da fare, e inoltre si può anche chiedere al concierge di appunto effettuare la nostra commissione di rinnovo della patente. Quindi avremo un carrello, innanzitutto ci iscriviamo sul sito dando i nostri dati anagrafici e la nostra carta di credito o pagamento tramite PayPal. Avremo appunto il nostro carrello con i servizi così selezionati e effettueremo appunto un ordine con data e indirizzo scelto appunto proprio dall'utente. Ovviamente gli abiti per la lavanderia e le scarpe per la calzoleria vengono ritirati a casa o in ufficio, dove si vuole, mm-hmm. dove sia più comodo, a qualsiasi ora prefissata decisa dall'utente. Ho capito, vogliamo ripetere l'indirizzo online www.myluman.com. Che vuol dire myluman? Scritto come? Perché è difficile in radio, non abbiamo la sovrimpressione. Certo. M come Milano e Y, sì. L come Livorno, Human. Ho capito, myluman. myluman.com. Lo stesso brand deriva dal fatto che vogliamo, diciamo, dare sempre il nostro utente, i nostri clienti li vogliamo sempre mettere al centro dell'attenzione, quindi per questo non vogliamo assolutamente che si perda la dinamica di ascolto e di relazione. Noi offriamo una customer experience, seguiamo il cliente dall'iscrizione e la vostra zona la vostra area di competenza è? Noi siamo presenti su Milano, Roma e Torino, e le prossime città di lancio saranno Bologna e Firenze. Ho capito. Ci spostiamo su Easy Mamma, perché molte delle ascoltatrici che seguono Nessuna è Perfetta vivono le difficoltà di conciliare tempi di lavoro e i tempi della maternità. Easy Mamma è nata proprio con questo scopo di alleggerire la vita delle mamme. Come, Valentina Bensi? Allora, Lazy Mom è nata con l'idea sicuramente di rendere la conciliazione un po' più attuabile. Sappiamo che purtroppo conciliare alla perfezione non è possibile. No, ma diamo per scontato che tutto quello che sappiamo, parliamo di che esatto. cosa fate concretamente, allora, diamo per noto tutto il resto. Ha cominciato l'attività proponendo degli incontri, soprattutto serali, proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavoravano con diversi esperti, di modo da poter formare o informare i genitori sulle varie tematiche di interesse per appunto per sulla esempio, genitorialità, sì. dal nutrizionista all'omeopatia, ai vaccini, alla psicologia, pedagogia, insomma. Diversi, abbiamo affrontato davvero tante tematiche. Quindi fornite dei consigli al genitore che spesso non sa bene come rapportarsi con il figlio adolescente, per esempio. Esatto, soprattutto i temi dell'adolescenza sono sempre più, stanno diventando i più sentiti in assoluto. E l'esperienza che abbiamo fatto sui diversi territori in cui operiamo negli appuntamenti serali si è però trasformata proprio per venire maggiormente incontro alle esigenze di chi lavora in un progetto da portare all'interno delle aziende, quindi fare in modo che durante le pause pranzo soprattutto, quindi trasformando i nostri incontri in lunch and learn, i dipendenti possano usufruire degli stessi benefici, quindi sia informativi sia di creazione di una rete virtuosa tra dipendenti che hanno le stesse esigenze, le stesse problematiche. Ho capito, quindi in un'azienda ci sono 15 genitori con figli adolescenti, quindi uniti da tutti i problemi che possono essere la trasgressione, la canna fumata fuori scuola, esatto. il fatto che vogliono rientrare tardi la sera. Voi fate un incontro di questi 15, facciamo dipendenti con esatto. figli teenager e l'esperto del singolo problema. E l'esperto del singolo problema che si mette a disposizione proprio per questo all'ora di pranzo nelle varie aziende. Sì, proprio anche lì per venire incontro anche alle esigenze dell'azienda, non certo. solo a quelle del dipendente. Ma voi fate anche campus estivi? Esatto, perché ci siamo resi conto che le esigenze dei genitori e lavoratori erano veramente tante, tra queste quelle di gestire i figli durante la chiusura delle scuole. E che cosa fate? L'idea. L'idea è quella di portare però, non di creare dei servizi all'esterno dell'azienda, ma crearli direttamente in azienda, facendo in modo che i campus, dedicati soprattutto ai figli dei dipendenti delle materne e della materna e delle elementari, potessero vivere il posto di lavoro del genitore e avvicinarsi al mondo del genitore. Quindi se il genitore lavora nel campo dell'ecologia, facciamo dei campi. Sì, ho capito, ma quanti lavorano nel campo dell'ecologia, Valentina? Normalmente il genitore lavora alle poste e cosa fate? Gli fate fare i postini? Il campus sarà impostato su questo tipo di attività, cioè quindi tutto il lavoro sarà proprio impostato sul fatto di attività manuali, attività ricreative dedicate a questo mondo. Senta Valentina, quanti campus estivi di questo tipo avete già sperimentato? Allora, al momento ne abbiamo sperimentato soltanto uno, perché è una realtà che è partita da poco e quindi stiamo riproponendo. Noi siamo nati come Easy Mamma 4 anni fa, ma l'esperienza che stiamo facendo all'interno delle aziende è nuova ed è partita soprattutto grazie alla collaborazione con Jointly da poco tempo attivata. Per cui siamo ancora giovani da questo punto di vista e quindi ci stiamo muovendo in questo senso. Adesso per l'estate dovrebbero partire ulteriori campi. Bene, in finale una domanda comune a Valentina Bensi e a Maria Chiara Ranetti. Qual è, nella vostra esperienza, il problema che crea più ansia nelle donne che si rivolgono a Easy Mamma o a Luman? Parliamo di donne che lavorano, poi ci sono anche gli uomini, ma qui a Nessuna è Perfetta ci interessa soprattutto un'angolazione femminile. Maria Chiara Ranetti, qual è il problema che mette più ansia? Ma il problema che mette più ansia è il tempo, la risorsa tempo è una risorsa scarsa per tutte e quindi diciamo che si lega molto bene anche ad un concetto di nuovo lusso. Il concetto di lusso è sempre più legato alla dimensione immateriale dell'esperienza, il vero lusso oggi è avere tempo a disposizione per sé e poter facilmente ed efficacemente delegare a qualcuno gli impegni giornalieri. Quindi ad oggi le donne cercano sempre di avere un maggiore equilibrio tra la vita lavorativa e la vita personale, ma non si fa mai, diciamo, quindi se c'è un sistema per scaricare il lavoro di stiro o il tempo che uno perde per andare a rinnovare la patente, ben venga. È molto costoso questo servizio che voi fornite? No, assolutamente, ma proprio appunto per questo motivo assumono valore tutti quei prodotti e quei servizi che non sono assolutamente costosi e inaccessibili, quali ad esempio i nostri, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, che danno però alle persone la possibilità di concedersi dei piccoli lussi quotidiani, dalle piccole e inaspettate gratificazioni personali, oppure comunque quei prodotti e servizi che permettono di risparmiare tempo. E questa, diciamo, è la value proposition di Luman. Inoltre siamo, diciamo, offriamo la nostra offerta sia ai privati sia alle aziende, anche noi siamo partner di Jointly, quindi offriamo, diciamo, le aziende si mettono in contatto con noi in quanto offrono i nostri servizi ai propri dipendenti. Alcune aziende si fanno anche carico del costo di una parte del costo della lavanderia o del calzolaio, esatto, o dell'osteria. Valentina Bensi, qual è il problema che mette più ansia, quello per il quale si rivolgono con più tensione a voi di Easy Mamma? Allora, confermo che la gestione del tempo è il problema più sentito. Si manifesta in modi ovviamente diversi, nelle mamme dei più piccoli ovviamente è la mancanza del tempo di qualità da dedicare ai propri bambini, quindi con conseguente senso di colpa da gestire perché ci si dedica soprattutto al lavoro e quando i figli crescono diventa sempre di più il fatto di non avere sott'occhio questi cambiamenti che la società rende sempre più repentini e quindi si fa fatica a capirli, a comprenderli. E in questo modo noi cerchiamo con gli incontri di formazione, gli incontri comunque di informazione, di dare un qualche chiave di lettura in più ai genitori proprio per comprendere, riuscire a comprendere questo mondo che cambia così velocemente dei propri figli. Bene. E a rendersi un po' più tranquilli e sereni nell'affrontare. Grazie a Valentina Bensi, fondatrice di Easy Mamma. Grazie a Maria Chiara Ranetti di Luman Servizi Salvatempo, ci hanno raccontato come possiamo alleggerirci la vita e trovate le informazioni online sui loro siti. Buona domenica! Grazie, buona domenica. Buona domenica. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Questa è l'ultima parte di Nessuna è perfetta, lo sapete, è il momento in cui con la nostra coach cerchiamo di dare una risposta a voi che ci scrivete e ve lo ricordo, potete scriverci dei vostri problemi di lavoro e in generale dei vostri problemi legati all'ambiente professionale. L'indirizzo è nessunaeperfetta@radio24.it oppure potete commentare con noi su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta. Siamo anche su Facebook, lo sapete. Che cosa ci scrive oggi Paola? Cara Maria, dopo la nascita della mia seconda figlia, mio marito ed io abbiamo deciso di trasferirci dalla città Milano alla campagna e ora viviamo in un paese in provincia di Lodi. Farei prima a dire viviamo in macchina. Ogni giorno passiamo gran parte del tempo in auto per raggiungere la città dove entrambi lavoriamo. Ogni tanto mi domando se abbiamo fatto la scelta giusta. Forse basterebbe una via di mezzo o comunque cercare una città a misura d'uomo, ma l'idea di trasferirci ancora proprio non mi regge. Grazie per l'attenzione, Paola. Eccoci, allora, la nostra coach è tornata con noi, Maria Serena Ciambellotti. Prima pillola da dedicare al problema di Paola. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona domenica. E, eccolo che cosa ci possiamo, come dire, possiamo utilizzare questa lettera di Paola proprio per fare una riflessione su che succede quando ci troviamo in situazioni che non ci fanno stare bene. Innanzitutto cercare di fare una valutazione, non facendo l'esempio di Paola, mentre sono in viaggio, in coda, in tangenziale o magari in fila perché c'è stato un incidente, ma in un momento in cui sono un po' più calma. Per esempio la domenica mattina, dopo aver sentito Nessuno è perfetto. Esatto, mentre ci stanno ascoltando. E usare questo esercizio, che è un esercizio molto potente, che consiste in porsi 3-5 volte al giorno la seguente domanda: che cosa sto facendo? Quindi chiedermi ora, che cosa sto facendo? Sono qui in pigiama, sto guidando, sono davanti a un PC. Seconda domanda, quindi registro la mia attività. Seconda domanda, quello che sto facendo è davvero quello che vorrei fare? Sì, no, è una domanda chiusa, quindi si pongono solo due possibilità. Se la domanda è sì, benissimo, perfetto, il mio check mi ha portato a verificare che sono contenta del mio stato attuale, della mia situazione presente. Per capirci, la seconda domanda, quello che sto facendo mi fa piacere, è riferito a quello che sto facendo in quel momento, cioè adesso, esatto, che ci stanno seguendo, se uno sta guidando sta andando da casa sua a casa della suocera, deve domandarsi, Maria, è contenta di andare a pranzo a casa della suocera? Questa è la domanda che si deve fare. È quel momento, ho capito. In quel momento, quindi nel hic et nunc, nel qui ed ora, questo è quello che vorrei fare? Sì o no? Una risposta semplice. Se è sì, bene, basta. Si passa, come dire, alla set di domande, alla fase successiva delle set di domande, quindi dopo le 3-4 ore, se decidiamo di farle ogni 5 volte al giorno. In caso di domanda negativa, di risposta negativa, quindi no, non è quello che vorrei stare facendo. Quindi allora mi chiedo che cosa idealmente vorrei essere impegnato a fare, anziché questo che sto facendo, e lo registro semplicemente. Quindi senza giudizio, senza dire vabbè grazie, anch'io se fossi davanti a un computer a fare una relazione noiosa vorrei fare altro. Mi do il permesso di sognare, tra virgolette, mi do il permesso di desiderare quello che davvero risponde alle mie esigenze e lo scrivo, lo registro. Questo fatto per 5 volte al giorno, per almeno 2 settimane, mi dà una panoramica di come sto nella mia vita e mi dà la possibilità di raccogliere quei dati fondamentali per prendere decisioni che, quando invece siamo colti dall'onda emotiva della insoddisfazione, della frustrazione, della rabbia, possono essere davvero... Quindi, per tornare a Paola, se Paola, invece di domandarsi ma che cosa sto facendo della mia vita nel tragitto dalla campagna a Milano, se lo chiede appunto la domenica mattina... 5 volte al giorno, ogni giorno però, quindi il lunedì, quindi quando sta facendo il trasferimento in auto, ma anche quando la sera esce per un aperitivo in città, ma anche quando è seduta davanti al PC, oppure il sabato quando può godere del verde dell'area nella quale vive, ad esempio, no? Quindi alla fine avrà una serie di informazioni e potrà fare proprio una somma aritmetica di quante volte ha risposto sì, è quello che sto facendo corrisponde a quello che desidero fare, e quante volte ha risposto no. E questo è un primo indicatore fondamentale, perché spesso abbiamo la sensazione, non so se è il caso di Paola, però a volte abbiamo la sensazione che l'infelicità che ci attanaglia sia moltissima, e a fare questo esercizio per 2 settimane alla fine ci dà un resoconto, un riscontro che tutto sommato è il 20% delle volte in cui non sono così soddisfatto, no? Certo. Quindi è un dato numerico molto importante per evitare poi di prendere decisioni sull'onda della insoddisfazione momentanea, perché in effetti a chi fa piacere rimanere bloccato in tangenziale nel traffico, no? Quindi è evidente che in quel momento alla domanda vorresti essere altrove, sì. La risposta è sì. Bene, io ringrazio Maria Serena Ciambellotti, la nostra coach, con le sue pillole e il consiglio di scrivere 5 volte alla settimana in momenti diversi della giornata, di rispondere alla domanda mi piace quello che sto facendo e che cosa sto facendo. Noi ci ritroviamo con Maria Serena Ciambellotti presto e intanto buona domenica a lei e buona domenica a voi che siete stati con Nessuna è Perfetta. E ricordatevelo che comunque, dovunque voi siate, il multitasking è una fregatura.